Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Multa dall'Unione Europea a Google per abuso di posizione dominante. 2,4 miliardi la richiesta di Bruxelles. Corruzione devastante, misure inefficienti, dice la Corte dei Conti sulla spesa, pochi effetti dai tagli. Ballottaggi, Renzi, le nostre polemiche esasperanti fanno vincere la destra e sulle banche, decreto doveroso. Fuggiti dall'accampamento di Ventimiglia, almeno 200 migranti respinti dalla Francia, alcuni tornano sul greto del fiume. Val d'Aosta, 22 indagati per la crisi del casinò, ipotesi di sperpero da 140 milioni di euro. È morto a 77 anni, lo avete sentito, anche in Melog il conduttore televisivo Paolo Limiti fu anche paroliere e scrisse testi per Mina e Ornella Vanoni. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, c'è anche la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta, così come andiamo in diretta dalla pagina Facebook di Radio 24, e volendo potete anche scriverci e commentare là. In apertura dunque la decisione della Commissione Europea su Google. Siamo in diretta con Bruxelles col corrispondente del Sole 24 Ore, Beda Romano. Beda, buongiorno. In cosa consiste questa multa, che è una multa record tra l'altro, e per cosa? Eccoci. Sì, è una multa record perché la multa più elevata in termini di antitrust da parte della Commissione europea risaliva al 2009, quando in quell'occasione la Commissione europea aveva multato Intel, il produttore di microprocessori, per un ammontare di 1,06 miliardi di euro. E questa volta sono molti di più, è il doppio, più del doppio in realtà, 2,4 miliardi di euro. È anche il doppio rispetto alle attese, perché si parlava più o meno di 1 miliardo di euro, ed è una multa inflitta a Google a causa del modo in cui Google favorisce il suo servizio di confronto dei prezzi al momento delle ricerche su internet. Attraverso il portale Google, quando si fa una ricerca su un prodotto che si vuole comprare, Google mette in avanti il suo servizio di confronto dei prezzi, relegando in fondo alla pagina il servizio di altri concorrenti. Secondo la Commissione europea c'è abuso di posizione dominante da parte della società californiana, e quindi ecco qui che c'è stata inflitta una multa piuttosto salata, piuttosto elevata. Naturalmente Google ha annunciato ricorso. È da specificare che questa decisione della Commissione europea giunge dopo un'inchiesta durata addirittura 7 anni. E ti ringrazio. Grazie a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, per questo aggiornamento. Veniamo all'Italia, dove invece intervenire la Corte dei Conti dà il suo giudizio sul rendiconto dello Stato e parla anche di corruzione. Sentiamo. Ancora una volta la Corte dei Conti punta il dito contro il livello troppo elevato del nostro debito pubblico e ancora una volta sulle misure anticorruzioni, insufficienti a combattere un fenomeno devastante. Non solo, la crescita in Italia è ancora troppo modesta rispetto agli altri paesi europei. L'allarme del presidente di coordinamento delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, Angelo Buscema, in occasione della relazione sul rendiconto generale dello Stato. L'auspicio della magistratura contabile è che si vada oltre la spending review, che non basta, e si punti al rientro dei conti con misure che non pesino sulla crescita. A consuntivo le misure di riduzione, mentre sembrano aver salvaguardato l'operare di interventi a sostegno dei comparti produttivi, non hanno prodotto risultati di contenimento del livello complessivo della spesa. Il presidente della Corte dei Conti accenna anche ai risultati di Consip, la SPA del Ministero dell'Economia, che opera come centrale unica per molti degli acquisti delle PA, finita al centro delle cronache per un presunto caso di corruzione che tocca politici e dirigenti della società. Il suo ruolo, secondo Buscema, è centrale nelle politiche di contenimento della spesa, ma troppi acquisti della PA avvengono ancora con procedure extra Consip. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo al fronte dei ballottaggi, il punto politico di oggi con la nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Matteo Renzi passa al contrattacco dopo la sconfitta alle comunali. Il dibattito sulla coalizione di centro-sinistra addormenta gli elettori e non serve, dice il segretario PD su Facebook. Ma sentiamo quanto ha detto. Le continue esasperanti polemiche all'interno del centro-sinistra alla fine non fanno altro che agevolare il fronte avversario. È sempre stato così, è normale, è fisiologico, secondo me è un errore politico. Se in tanti pensano che il problema sia soltanto dentro il PD, poi è chiaro che alla fine arrivano le elezioni e rischia di vincere qualcun altro. Renzi poi continua, i nostri hanno detto subito in TV che abbiamo perso, sconfitte come Genova fanno male, ma non ha nessuna intenzione di lasciar perdere lo Ius Soli. Nel centrodestra si discute di leadership, Matteo Salvini della Lega boccia l'idea di Silvio Berlusconi di moderati e liberali che considera categorie vecchie, mentre Paolo Romano da Forza Italia ribadisce che il leader della coalizione è Silvio Berlusconi. Nei ballottaggi si evidenzia poi un aiutino dei 5 Stelle ai candidati di centrodestra, ma è duello tra Danilo Toninelli e Maurizio Gasparri, non incontro imbroglioni sulla legge elettorale, attacca l'esponente grillino. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento, e la politica si concentra anche sul decreto con il quale sono state liquidate e salvate le due banche venete. Piercarlo Padoan torna a difendere l'intervento del governo per il salvataggio delle banche venete. Una liquidazione pura e semplice dei due istituti avrebbe comportato una crisi drammatica per un territorio che sta trainando l'Italia nella ripresa economica, dato che le due banche avevano fra i loro clienti 200.000 imprese e avrebbe probabilmente costretto l'intero sistema bancario italiano a sobbarcarsi il costo della tutela obbligatoria dei depositanti, spiega il ministro dell'Economia. Ad intervenire sono anche i vertici di Banca Intesa, che ha rilevato le due banche in crisi alla cifra simbolica di un euro. Non è un regalo, senza di noi lo Stato avrebbe perso 10 miliardi, dice l'amministratore delegato Carlo Messina. Quella del governo è stata una scelta doverosa, commenta Matteo Renzi. Per il segretario del PD sarebbe necessaria una battaglia in Europa per far sì che gli stessi criteri adottati per le banche venete vengano applicati anche agli istituti di altri paesi del nord, come quelli tedeschi. Contro il decreto salvabanche interviene invece il segretario della Lega Salvini, che annuncia battaglia in Parlamento se il provvedimento non verrà cambiato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ormai lo sapete, notizia di ieri sera: la Corte Suprema americana ha reintrodotto parzialmente il cosiddetto Muslim Ban, il provvedimento che prevede il divieto d'accesso agli Stati Uniti per le persone provenienti da 6 paesi a maggioranza musulmana. L'esame più approfondito inizierà ad ottobre. Il ridimensionamento del provvedimento riguarda il fatto che sono sì esclusi tutti coloro che, pur venendo da Libia, Iran, Somalia, Sudan, Siria e Yemen, dimostreranno di avere un legame stabile negli Stati Uniti di natura familiare o di lavoro. È vietato l'ingresso invece a coloro che fanno richiesta del visto per la prima volta o che in America non hanno né famiglia né rapporti professionali con le imprese. Di questo, come sempre, torneremo a parlare più avanti in America 24. E rimanendo all'estero, ci occupiamo invece di Srebrenica, perché la Corte d'Appello dell'Aia ha stabilito che il governo olandese è parzialmente responsabile della morte nel 95 di circa 300 uomini musulmani uccisi appunto a Srebrenica. Secondo il giudice, i soldati olandesi costrinsero i rifugiati che cercavano riparo nel loro compound a lasciare la base, consegnandoli di fatto ai carnefici. Il commento è di Ugo Tramballi. È evidente che le truppe olandesi sono colpevoli, sebbene la peggiore delle pene per un soldato, la codardia, la stiano già scontando da 21 anni. Sono responsabili sul piano militare e morale, ma come loro, anzi di più, sono colpevoli quei vertici delle Nazioni Unite che mandarono a Srebrenica pochi caschi blu olandesi, non armati come la situazione richiedeva, in un teatro bellico che non potevano controllare in quelle condizioni. Come colpevoli furono coloro che più o meno nello stesso periodo lasciarono in Ruanda pochi caschi blu belgi immediatamente sopraffatti dalle milizie Hutu. Ovunque siano dispiegati nel mondo, i caschi blu funzionano fino a che lo vogliono i combattenti che l'ONU pretende di dividere e tenere in pace. Nel momento in cui questi ultimi cambiano idea e decidono di massacrarsi, le forze ONU non hanno mai i mezzi, la volontà né il mandato politico per imporre qualcosa. Come nel sud del Libano, dove dal 2006 i militari dell'UNIFIL, fra cui un migliaio scarso di italiani, mantengono la pace fino a che Hezbollah e Israele non decideranno di riprendere la loro resa dei conti. Così dunque Ugo Tramballi su Srebrenica. Veniamo all'Italia. La polizia postale di Torino ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 24 anni, residente nel Cuneese, che è responsabile di aver adescato per oltre 3 anni più di 100 minori. Come stratagemma, per contattare i ragazzi di età sotto i 16 anni, usava profili falsi femminili attraverso vari social network, ed era tra l'altro il direttore sportivo, un impegnato nel mondo del calcio. Assunta Esposito è vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, sentiamola. Lui aveva sempre gravitato nell'ambito delle squadre giovanili, prima come allenatore, poi come direttore sportivo, ed era quello il settore dove lui si dirigeva prevalentemente per cercare le sue vittime. E le trovava su Facebook, alcune naturalmente le conosceva di persona, e da lì poi attraverso amici di amici ha allargato la sua cerchia. La caratteristica interessante è che lui li profilava proprio, quindi accanto alle immagini di questi ragazzini trovate su Facebook abbiamo poi trovato i corrispondenti selfie erotici che lui riusciva a far loro produrre, e quindi era proprio una vera e propria catalogazione che si era creato. E un'altra cosa interessante è data dal fatto che questo soggetto non si è fermato neanche dopo la prima perquisizione, perché poi dall'analisi abbiamo avuto riprova del fatto che lui ha continuato ad adescare ragazzini anche dopo quel primo intervento della polizia, quindi anche dopo che era stato in qualche modo scoperto. Le cronache dalla siccità e dal gran caldo di queste ore, insomma, ce ne siamo occupati parecchio nei giorni scorsi. Ieri siamo andati nel Lazio, oggi andiamo in Puglia. Caldo torrido e allarme siccità nelle campagne e nelle città. Sempre più assetata la Puglia, che ieri nell'arco di una sola giornata ha visto scendere il livello dell'acqua di circa 2 milioni di metri cubi nei 4 invasi foggiani di Occhito, Capacciotti, Capaccio e Osento. Per le precipitazioni, che sono risultate quasi del 50% inferiori rispetto alla media, l'allarme viene dalla Coldiretti Puglia. Ad oggi il livello di metri cubi d'acqua presente negli invasi è di 230 milioni contro i 267 dello stesso periodo dello scorso anno. Il livello delle dighe è costantemente monitorato dal Consorzio di Bonifica di Capitanata e la situazione è al momento sotto controllo per quanto riguarda l'uso dell'acqua potabile, ma i problemi della prolungata e ricorrente siccità riguardano l'uso irriguo, mettono a rischio l'annata agraria di ortaggi e frutta e compromettono anche i raccolti di cereali e foraggi per l'alimentazione degli animali. La Puglia si rifornisce di acqua da 5 invasi, 2 sorgenti e 200 pozzi, ma nei 21.000 km di acquedotto, il più lungo d'Italia, le perdite sono costanti e antiche. Lucia De Mari, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari. Un paio di aggiornamenti battuti adesso dalle agenzie. Il primo riguarda la Consip. Non c'è ancora l'accordo, scrive l'ANSA, sul nome del nuovo amministratore delegato della centrale acquisti dello Stato, l'uomo che dovrebbe subentrare a Luigi Marroni. Per questo l'assemblea di Consip, che era inizialmente prevista per le 12, è slittata alle 15 e potrebbe slittare ulteriormente a domani. Questo appunto lo scrive l'ANSA citando fonti politiche. Il secondo aggiornamento è una dichiarazione di Margaret Vestager, che è la commissaria europea alla concorrenza, nel corso della conferenza stampa nella quale ha presentato quello che è stato il provvedimento del quale vi abbiamo parlato in apertura, ossia la multa da 2,4 miliardi di euro per Google. Ha parlato anche delle banche italiane. La decisione sulle banche venete, dice Vestager, non ha aggirato le regole per quanto riguarda appunto gli aiuti di Stato, ma il set di regole che abbiamo lascia spazio alle differenze, dice Vestager, a fronte delle accuse che sono arrivate appunto all'Italia di aver aggirato le regole europee. Ne abbiamo già parlato in Melog, questo è il nostro ricordo invece di Paolo Limiti. È a vederti così da vicino vicino. È stato un maestro della memoria collettiva e un protagonista indiscusso della televisione, ma gli esordi di Paolo Limiti erano stati come autore di canzoni. Magico l'incontro con Mina, per lei ha scritto brani come Bugiardo incosciente, che state sentendo, ma anche La voce del silenzio, Sacundì Sacundà, Ballata d'autunno, per citarne alcune. E sono state poi tante le celebrità nazionali ed internazionali con cui ha lavorato, a partire da Iula De Palma, ma anche Ornella Vanoni, Dionne Warwick, Loretta Goggi, Albano e tanti altri. altri. Era nato a Milano l'8 maggio del 1940. Amante del genere nazional popolare, di lui hanno scritto che ha saputo rendere persino il trash un modo elegante di fare spettacolo. Nel 1968 ha cominciato a collaborare con la Rai grazie a un altro grande conduttore, Luciano Rispoli, scomparso lo scorso anno. Nella sua lunga vita professionale, Limiti ha lavorato anche con Mike Bongiorno, curando le domande di 4 edizioni del Rischiatutto. Ma la sua spalla d'eccezione è stata l'inseparabile cagnolina di Pezza, Flora Dora. Tu devi promettermi che non ti arrabbierai assolutamente. Non lo so, vediamo. Fammici pensare. Per 2 anni, dal 2000 al 2002, è stato sposato con la showgirl Justin Matera, sosia di Marilyn Monroe, che ora lo ricorda così su Instagram. Sembra ieri, a te che mi hai creato una carriera. Love you. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, mentre siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, così come sulla pagina Facebook di Radio 24 in diretta video, oltre che naturalmente siamo in diretta su Radio 24 come è normale che sia, visto che siamo una radio. Ci ritroviamo subito dopo, iniziamo il nostro giro per l'Italia, parleremo molto di immigrazione oggi a partire da quella Ventimiglia che torna al centro dell'attenzione. Per giorni alcuni migranti, anzi centinaia di migranti accampati sul il greto di un fiume, ieri lo sgombero, il tentativo di questi migranti di passare il confine con la Francia e oggi, tra la notte e oggi, una vera e propria caccia all'uomo in Francia per trovarli e poi respingerli, rimandarli in Italia. Alcuni sarebbero tornati là. C'è stata una rivolta e per questo vi dico che continueremo a parlare di immigrazione al CARA di Bari questa notte, e ci sono stati 8 feriti, e poi ci occuperemo anche della Val d'Aosta. Come sentivate nei titoli, si ipotizza uno sperpero di denaro pubblico da 140 milioni di euro per cercare di salvare il casinò, che continua ad essere in grande crisi. A tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, sempre in diretta tanto su Radio 24 quanto su Facebook, e sempre 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della multa a Google da 2,4 miliardi da parte dell'Unione Europea, della relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato, ancora di ballottaggi e della decisione della Corte d'Appello dell'Aia sul governo olandese ritenuto parzialmente responsabile della morte di 300 uomini musulmani uccisi a Srebrenica. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e prima ancora di andare a Ventimiglia fatemi dire una cosa. Oggi non so se un ascoltatore o un'ascoltatrice, perché l'indirizzo email non era chiaro, ha scritto ad Effetto Giorno mandandomi il link di una cosa piuttosto interessante. Nei giorni scorsi, e lo diciamo oggi proprio perché è il 27 giugno, adesso vi spiego perché, nei giorni scorsi ci siamo occupati molto del terremoto e vi abbiamo raccontato come tutta una serie di ordinanze che si sovrappongono, di normative diverse anche per singole aree del territorio, stiano creando molti problemi alla ricostruzione, stiano sostanzialmente fermando tutto in parecchie aree del centro Italia. Perché ne torniamo a parlare oggi, il 27 giugno, solo con un accenno e con una notizia? Perché oggi, 27 giugno, succede la seguente cosa. Arrivano una serie di studenti dall'Università dell'Ohio, negli Stati Uniti, e dove vanno? Vanno in Friuli per fare cosa? Per studiare come in Friuli hanno ricostruito dopo il terremoto. Non solo dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista normativo. E se volete è un po' quello che ci siamo detti l'altra volta. Ma insomma, di esempi di ricostruzione riuscita ne abbiamo. Abbiamo citato l'Emilia, abbiamo citato l'Umbria nel 97, l'Umbria e Marche nel 97. Non abbiamo citato il Friuli, forse ci siamo sbagliati, ma ecco qua un bel esempio. Gli esempi ce l'abbiamo, basterebbe riprendere quelle regole. Le regole che sono utilizzate allora, riapplicarle senza bisogno di fare 30 ordinanze di cui alcune correggono un paragrafo delle precedenti. E scusate il piccolo sfogo, se volete, anche da umbro oltre che da italiano. Daniela Zitarosa, operatore legale di Intersos a Ventimiglia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora, è una delle associazioni che opera a Ventimiglia e che si occupa di migranti. I fatti, più o meno i nostri ascoltatori li conoscono, risalgono a domenica notte, ma hanno ovviamente una coda in queste ore. C'era un vero e proprio accampamento sul torrente Roia. Il sindaco ha emanato un'ordinanza con la quale diceva che bisogna pulire il greto del fiume Roia e risistemarlo. In questa chiave sostanzialmente i migranti sono stati fatti sgomberare e dopodiché hanno provato a passare il confine con la Francia. 200 di loro, abbiamo appreso oggi, le ultime notizie che ci arrivano dalle agenzie, sono stati ritrovati dai poliziotti francesi, respinti e rimandati in Italia. Zita Rosa, innanzitutto quello che voglio sapere da lei è la situazione proprio sul greto del fiume al momento. Sì, come ben detto, noi siamo attivi qua a Ventimiglia con il nostro progetto da novembre, operativi con un'assistenza e supporto legale con focus specifico sui minori stranieri non accompagnati e vulnerabili da febbraio e ultimamente anche con un'assistenza sanitaria proprio per le persone che hanno stanziato in questi ultimi mesi sotto il ponte, sulle rive del fiume Roia, si tratta di tutte quelle persone che erano fuori dalla possibilità di accedere al centro di accoglienza del sì. campo della Croce Rossa, il campo Roia. Sì. Effettivamente, come abbiamo più volte ribadito e testimoniato, la situazione sotto il ponte a livello igienico-sanitario era tremenda, per usare un eufemismo, e quindi abbiamo sempre auspicato la possibilità di poter ampliare la disponibilità di accoglienza al campo della Croce Rossa e abbiamo sempre invitato tutti i ragazzi a spostarsi sì. Proprio per le condizioni in cui versavano. Venerdì è stata emanata questa ordinanza da parte del sindaco del comune di Ventimiglia, dove si invitavano tutte le persone che in quel momento avevano trovato un giaciglio sotto il ponte a spostarsi per iniziare questa attività di pulizia del fiume che effettivamente sì. era assolutamente necessaria. Questa in realtà la mattina noi ci siamo recati sul posto, è mattinata molto presto e abbiamo potuto vedere che sul ponte in realtà c'erano solo una ventina di ragazzi ed erano iniziate le pulizie. Sì. Non è stata in realtà un'attività vera e propria di sgombro, proprio perché nella notte, questo è quello che ci è stato poi comunicato la mattina da parte dei ragazzi, un gruppo di 300 persone all'incirca hanno deciso in maniera spontanea sì. Di intraprendere questa marcia verso il confine della Francia. Supportati, Zita Rosa, da quel che ho capito, supportati da alcune persone delle associazioni No Borders, no? Che sono questi attivisti che in qualche modo supportano i migranti, fin dall'inizio in realtà, poi la Ventimiglia. Guardi, in realtà questo non è un dato così certo, nel senso che quello che ci hanno detto i ragazzi almeno è che i ragazzi stessi che sono stati in questi giorni, in queste settimane sotto il fiume, attraverso delle loro assemblee hanno preso autonomamente questa decisione di dirigersi verso la Francia. Abbiamo effettivamente visto dei volontari con loro, detto ciò non abbiamo ovviamente la certezza che queste persone siano state condotte. Sì. Quindi le persone c'erano, tra l'altro ci sono anche le foto, per esempio sui giornali locali, soprattutto sul secolo XIX, ci sono le foto di questi attivisti che parlano con i migranti che sono là sotto il ponte, però appunto non si ha la certezza che siano stati loro a portarli là. Dunque non ho capito una cosa, adesso la situazione là sotto il Roia è tornata tranquilla, ci sono ancora delle persone, non ci sono delle persone, se ne sono andati? Durante la giornata di ieri effettivamente si è potuto vedere una presenza in aumento rispetto a quello che era la mattina, proprio perché come detto prima le persone sono state durante tutta la giornata respinte in territorio italiano da parte delle autorità francesi. Continuano comunque le pulizioni sotto il fiume, non è possibile per i ragazzi ritornare a dormire lì. Effettivamente ci sono dei numeri, però non è detto che magari sono le persone che sono uscite fuori dal campo Roia o dal campo informale delle Gianchette. Sì. Nel frattempo, insomma, si cerca di organizzare l'accoglienza. Da quel che ho capito, una parte verrà portata al CIE di Taranto, un'altra parte verrà accolta dalla Croce Rossa, ho capito bene, più o meno? Sì. Il campo della Croce Rossa in questo momento può accogliere tutti gli adulti che si presentano all'ingresso con le solite modalità di ingresso. Nei prossimi giorni immagino verranno definite in maniera più specifica proprio le modalità di accoglienza, perché ci sono dei lavori comunque in corso. Parallelamente sì, sappiamo che c'è in questo momento in frontiera la presenza dei i pullman che sono soliti portare le persone dalla frontiera francese-italiana di Ventimiglia verso Taranto. Allora vedremo che cosa succederà. Io intanto la ringrazio, Daniela Zitarosa, operatore legale di Intersos a Ventimiglia. Qualche ascoltatore, anzi un ascoltatore soltanto a dir la verità, lamenta il fatto che su questo tema andiamo a sentire un'associazione che si occupa di questo, ma mi sembra che tra l'altro Zitarosa sia stata molto fredda anche nella sua descrizione, ci sembra quasi da cronista, direi. Da Ventimiglia a Taranto ci spostiamo a Bari per parlare in realtà dello stesso argomento. Michele Saracino è segretario del SIULP, che è uno dei sindacati di polizia proprio di Bari. Buongiorno Saracino, benvenuto. Ci sente? Saracino non ci sente. Evidentemente abbiamo qualche problema tecnico di audio. Chiedo alla nostra Laura Faggin dall'altra parte del vetro. Che mi dite? Ce l'abbiamo? Stiamo provando a richiamarlo? Vabbè, facciamo una cosa, guardate, adesso proveremo a ripescare Michele Saracino. Comunque il problema qual è? Che là c'è un CARA, come quello di Mineo, un centro di accoglienza per richiedenti asilo. Abbiamo già raccontato spesso di quanti problemi ci fossero sul CARA di Mineo, problemi ce ne sono anche su Bari, magari non sono così evidenti perché le dimensioni del CARA di Bari non sono le stesse del CARA di Mineo, però questa notte ci sono stati nuovi scontri, una sassaiola, 8 poliziotti feriti, e vogliamo un po' capire come si riesce, come si può mantenere l'ordine in un'area come quella. Comunque Saracino non ci risponde e quindi andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo, e se ripeschiamo il segretario del SIULP di Bari, bene, altrimenti passeremo da Bari alla Valle d'Aosta per parlare del buco del casinò. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. La multa dall'Unione Europea a Google per abuso di posizione dominante, 2,4 miliardi la richiesta di Bruxelles. Corruzione devastante e misure insufficienti, dice la Corte dei Conti. Sulla spesa pochi effetti dai tagli. Ballottaggi, Renzi, le nostre polemiche esasperanti fanno vincere la destra. Sulle banche dice decreto doveroso. Proprio sul tema delle banche interviene anche la commissaria europea Vestager, che dice non sono state aggirate le regole europee. Fuggiti dall'accampamento di Ventimiglia, lo abbiamo raccontato, almeno 200 migranti respinti dalla Francia. È morto a 77 anni il conduttore televisivo Paolo Limiti. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto giorno, ed eccoci sempre in diretta su Radio 24 e anche sulla nostra pagina Facebook, così come sulla pagina Facebook di Radio 24, in diretta video se volete anche vederci, e volendo, come già sapete, potete scriverci anche là. Abbiamo recuperato a quanto pare Michele Saracino, che è segretario del SIULP di Bari. Saracino, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a voi, spero che mi sentiate adesso. Sì, adesso finalmente la sentiamo. Sì. Il CARA appunto di Bari, abbiamo parlato spesso del CARA di Mineo, ma noi che bazzichiamo spesso le cronache locali quando prepariamo la trasmissione, notiamo che anche a Bari, come dire, la situazione non è semplicissima, per usare un eufemismo. A Mineo è più diffusa, la dimensione è più grande, il centro per accoglienza e il centro di accoglienza per richiedenti asilo. Questa notte a Bari c'è stata una sassaiola con 8 agenti tra contusi e feriti, più o meno. Saracino, le cifre sono queste, no? Sì, sì, sono queste. Fortunatamente, insomma, poteva andare peggio, ecco, da quello che mi dicono insomma, sono stati oggetto di un folto lancio di pietre di grosse dimensioni. Pensate che la dirigente che ha riportato una frattura al setto nasale indossava il casco, quindi immaginate, insomma, senza casco quali potevano essere le conseguenze. C'è un problema di gestione dell'ordine pubblico là al CARA, mi sembra di capire. Guardi, io credo che sia riduttivo limitarsi a un approccio di ordine pubblico, anche perché la dimostrazione di questi scontri che sono avvenuti in realtà mostrano un'intolleranza rispetto a dei controlli mirati fatti puntualmente dalla questura di Bari. Però pensate che ci sono in questo momento 1850 ospiti, sarebbe un quartiere della città, ed è normale, con etnie diverse, religioni diverse, spesso in conflitto nelle terre natie, quindi potete immaginare che la scintilla è sempre pronta lì. Sì, che è che è un po' quello che succede anche a Mineo, con l'unico problema, lo abbiamo raccontato ospitando il procuratore, che il procuratore della zona, che là c'è una piccola procura, è poco fornita, pochi uomini sul territorio. Immagino che voi chiediate più uomini anche là per la gestione del CARA, o no? Assolutamente sì, guardi, il problema è che purtroppo, ma questo a livello nazionale, le piante organiche, diciamo la fotografia delle piante organiche, quindi l'attribuzione di forze di polizia in un determinato territorio è fermo all'89, quando probabilmente il fenomeno migratorio non esisteva ancora. Si consideri che poi Mineo ha dei problemi, pare un altro tipo di problemi, perché quel personale che poi viene impiegato in forma emergenziale o in forma ordinaria presso il CARA viene sottratto al controllo del territorio. Noi siamo una città comunque dove i clan sparano, una città comunque di 350.000 abitanti, una città anche a vocazione turistica, e quindi in estate abbiamo anche un aumento della popolazione rispetto a quella invernale. E quindi anche la città in realtà paga un prezzo. Com'è naturale che sia. Questi sono i paradossi, e la ringrazio. Grazie Michele Saracino, segretario del SIULP di Bari. Di un sistema di accoglienza che spesso non funziona un granché bene. Considerate che proprio questa mattina, ce lo segnala un ascoltatore via WhatsApp, ma lo vediamo anche dalle agenzie, centinaia di migranti ospiti proprio del CARA di Mineo hanno inscenato un corteo di proteste e bloccato la statale Catania-Gela per contestare l'applicazione di norme di sicurezza all'interno della struttura. Tra l'altro, all'interno del CARA di Mineo oggi la tensione è scattata perché sono stati rimossi dei mercatini abusivi, perché come ci raccontava il procuratore di Caltagirone, là dentro, quando metti 2.000 persone all'interno di una stessa struttura, si crea una vera e propria città, un vero e proprio piccolo paese, e quindi naturalmente anche con i mercatini abusivi. Prima ancora, chiedo al sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli di aspettare ancora un attimo in linea. Voglio salutare Claudio Albertinelli, che è il segretario del sindacato autonomo valdaostano. Buongiorno Albertinelli, benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, questo sarà sicuramente materiale per il nostro Sebastiano Barisoni con la sua classifica del venerdì di Focus Economia sugli sprechi, ma fatto sta che ci sono 22 indagati in Val d'Aosta per una vicenda che riguarda i finanziamenti al casinò. Si parla di 140 milioni di euro buttati, non dico dove, 140 milioni di euro iniettati nel casinò di Saint Vincent, che sono sostanzialmente serviti a poco o nulla, e il casinò che resta in crisi. Più o meno, come dire, mi sembra che sia la finanza che la Corte dei Conti stiano fotografando una situazione decisamente problematica, Albertinelli, no? Sì, ecco, le notizie di oggi sono di questo tipo, queste inviti a ridurre, questi avvisi di garanzia per questi 140 milioni di finanziamenti, quindi questo vedremo un po' il percorso giudiziario dove porterà. Ecco, è chiaro che oggi la situazione in casinò è una situazione complicata, è da mesi, da anni che cerchiamo di fare delle operazioni per riportare questa azienda in una situazione di pareggio, in una situazione un po' di equilibrio finanziario. I lavoratori sono da anni che stanno contribuendo a questo percorso con degli accordi che abbiamo fatto, che prevedono il taglio delle retribuzioni. È bene però ricordare che questi soldi che sono stati dati, sui quali ci sono queste indagini, sono legati in particolare ai dei lavori di ristrutturazione che sono stati fatti negli anni, e che quindi questi soldi sono serviti un po' a finanziare questi lavori, ecco, dei lavori importanti che però sono serviti per ristrutturare l'azienda, il Grand Hotel Ubilia che ne fa parte, quindi sono tutte delle azioni che sono state fatte e che ad oggi non hanno ancora dato i frutti sperati, ecco. E che forse non li daranno mai, Albertinelli. Cioè, io spero per voi di sì, spero che li diano, però insomma la vedo durissima. Quando inietti 140 milioni di euro e i risultati non si vedono, sinceramente, in una singola azienda, peraltro piuttosto piccola, è dura, no? Sì, è dura. Infatti noi ancora oggi, proprio questo pomeriggio, avremo un incontro alla direzione regionale del lavoro, perché c'è in atto una procedura che prevede 260 licenziamenti in un'azienda che ha 650 dipendenti. Il 30 giugno questa procedura scadranno i termini. Questo pomeriggio abbiamo un ennesimo incontro per cercare di trovare delle soluzioni alternative. Non è facile proprio perché anche, come dite voi, i soldi messi da una parte, ma anche i soldi messi dai lavoratori dall'altra, questi sacrifici non stanno dando i frutti sperati, quindi è difficile trovare ancora la possibilità di un equilibrio, ecco. La ringrazio, grazie Claudio Albertinelli, ed eccoci Giancarlo Muzzarelli, sindaco di Modena, mi scusi per l'attesa, oggi è andata un po' così. Salve, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti voi. Eccoci qua, per parlare con lei di musica, sentiamo, va. Chissà se Vasco lo farà questo pezzo vecchissimo, forse è il primo pezzo che ho ascoltato in vita mia di Vasco Rossi, devo dire la verità. Parliamo di Modena Park, questo evento che state attendendo tutti per sabato, 220.000 persone a Modena attese per il concerto di Vasco Rossi. Insomma, Muzzarelli, un modo anche per consolarsi delle mazzate elettorali. Mi scusi, scusi la battuta, non ho resistito. Dolcissimo, grazie. No, male fare. Come vi state organizzando? No, intanto qui aumenta l'adrenalina per un evento unico per il nostro Vasco Rossi, ovviamente. È un concerto, come diceva lei, con un record di spettatori paganti, un inno. Io credo che sia deve essere una grande festa per la libertà contro le paure. Siamo in tanti e faremo festa perché questo è ciò che vogliamo, per fare festa a Vasco che torna qui dove tutto è iniziato, no? E festeggia questo evento unico per i suoi primi 40 anni di carriera, e credo che sarà una grande festa qui in Italia, perché ci saranno tante iniziative, e credo che sia un fatto importante dentro al Modena Park, una città nella città che sta crescendo tutti i giorni. Ascolti Muzzarelli, prego. Qualche ascoltatore ci scrive: per una città come Modena, probabilmente modenese, dice, per le dimensioni che ha è un evento ingestibile in realtà. No, non conoscono Modena, chi dice questo non conosce Modena. Noi abbiamo un parco di 440.000 metri, una opportunità unica, è una festa che vogliamo fare per tutta Modena. Il concerto non è calato sulla città, ma è un concerto in città per la città. Pensi che 30.000 presenze saranno nella provincia di Modena, perché amano Vasco, che ha iniziato la sua carriera qui a Modena, e non si poteva fare che a Modena, proprio per il suo legame con la sua terra, la sua Zocca, la sua Modena, la sua Emilia Romagna. Non lo dico, Muzzarelli, non lo dico, so già che l'avrete fatto, vietate bottiglie di vetro, controlli accurati all'ingresso e tutto qua, tutto previsto, immagino, no? Sì, è tutto previsto, adesso bisogna essere antigufi, la sicurezza è stata della nostra prima priorità. È ovvio che viviamo in un'epoca di tensioni, ma non possiamo stare in casa, dobbiamo continuare ad avere il diritto di vivere nella nostra città. Abbiamo creato un sito modenapark.comune.modena.it, lì troverete tutto, abbiamo messo le informazioni per arrivare a piedi, in macchina, le autostrade, come fare, perché è importante sul come fare. Spesso si vanno ai concerti, si va un po' leggeri, bisogna andarci concentrati, con l'adrenalina giusta con i percorsi giusti. Devo chiudere, lei ci va? Sì, no? Io ovviamente ci vado e sarò al centro operativo e ovviamente sarò lì e ringrazio fin d'ora tutte le forze dell'ordine, i volontari, la marea di persone che da Roma a Modena e ritorno sono tutte impegnate per assicurare un grande evento di passione, di forza e anche di libertà. Speriamo che dal centro operativo se lo possa comunque godere. Grazie a Giancarlo Muzzarelli, sindaco di Modena, traffico Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.